Per primissima cosa ti direi questa emergenza del coronavirus ha sicuramente messo in luce delle problematiche all'interno delle carceri già presenti, come il sovraffollamento, come il sistema sanitario e la distribuzione del sistema sanitario all'interno delle carceri. Ma qual è la situazione effettivamente rispetto a questo, sul sovraffollamento e sul sistema sanitario? Allora, la situazione del sovraffollamento è una situazione, diciamo, che va avanti da ormai da decenni. Sovraffollamento, appunto, noi appunto, abbiamo tra condanna, siamo stati condannati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, abbiamo preso qualche misura, che è una misura, ovviamente, misura di tipo solo deflattivo, che per un breve periodo ha portato ad un abbassamento numero di persone ristrette in carcere, ma naturalmente non ha risolto il problema di fondo. Il problema di fondo è che noi utilizziamo il carcere come strumento contenitivo di tutta una serie di problematiche sociali che non risolviamo in maniera diversa. Quindi, se davvero si volesse risolvere il problema del carcere, si dovrebbe fare una politica seria di decriminalizzazione, cioè a determinati fenomeni, problemi sociali non bisognerebbe dare come risposta il carcere, ma altro. E naturalmente nel momento in cui questo non lo fai, per un periodo puoi mettere misure deflattive tipo la liberazione anticipata, cioè aumentare il numero di giorni di sconto che hanno i detenuti per buona condotta. Per questo periodo ovviamente i detenuti diminuiscono, però poi si comincia da capo, perché naturalmente se tu continui a inserire nuovi reati, a inserire la severità delle sanzioni, eccetera, eccetera, la gente continua a entrare in carcere. Quindi, diciamo, il sovraffollamento nessuno fino ad oggi ha potuto affrontare questo nodo di fondo. E per quanto riguarda la salute, la questione è complessa, perché noi abbiamo appunto avuto prima la sanitaria gestita dal Ministero della Giustizia, e dopo dal 2008 l'abbiamo spostata al Ministero della Sanità, dicendo che i detenuti hanno uguale accesso alla salute come se fossero cittadini comuni, quindi il servizio sanitario del carcere viene integrato in quello, diciamo, nazionale. Però naturalmente ci sono delle criticità enormi. Uno, il carcere ospita una popolazione che è molto malata perché il carcere tende, come dire, a criminalizzare fasce più vulnerabili di popolazione, quindi persone con vulnerabilità di vario tipo, di tipo fisico ma anche di tipo psichico, tendono ad entrare in carcere più degli altri. E poi il carcere è in condizioni di sovraffollamento, in condizioni igieniche disastrose, quindi il carcere ammala. Il carcere, come dire, è un ambiente in cui se uno entra sano sicuramente ne esce in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui è entrato. E quindi naturalmente, come dire, la sanità pubblica in questo contesto qui fa fatica anche perché le strutture non sono adeguate, c'è il sovraffollamento, ma sono strutture vecchie, fatiscenti, in cui non c'è rispetto di la difficoltà di far rispettare anche le norme igieniche tra quelle più banali. Quindi ovviamente in un contesto del genere arriva una cosa come il coronavirus, è una bomba a orologeria. Certo, e questa bomba è un po' scoppiata. Io, correggimi se sbaglio, sono circa 30 le carceri in rivolta in questi giorni, si parla di 13 detenuti morti. Qual è la situazione? Che naturalmente se io sono già, come dire, privato della mia libertà personale, sono affidato a una struttura che è una struttura che non è in grado evidentemente di proteggere, o comunque io ho la percezione che non è in grado di garantirmi questa struttura. Faccio riferimento sia alla parte sanitaria che a tutto il resto. Io ho paura, cioè noi oggi siamo tutti in casa, ciascuno nella sua casa, impaurito a mettere piede fuori di casa, però comunque stiamo nelle nostre abitazioni, abbiamo più o meno tutti i comfort. Se abbiamo un problema possiamo chiamare il nostro medico di famiglia, possiamo chiamare il 118 e via discorrendo. Immaginatevi invece a stare in un ambiente in cui sto con un sacco di persone che fondamentalmente sono degli estranei con cui io sono costretto a convivere, in cui ci sono problemi a far rispettare le normali norme igienico-sanitarie, quelle che appunto dovrebbero essere quelle che fanno prevenire tutte appunto il rischio di trasmissione del coronavirus. Mi impediscono di vedere i miei familiari perché appunto c'è il rischio del contagio. Tagliano le porte, chiudono le porte al volontariato, quindi a tutto il mondo esterno che entra in carcere. Io avrei paura. Io personalmente in una situazione del genere avrei paura. E quindi naturalmente in un contesto di paura poi può succedere che qualcuno inizia a fare casino e poi si crea una situazione appunto di panico, di violenza, insomma era una cosa che vista la situazione a me non sorprende affatto che sia successo questo e stia succedendo questo. Poi naturalmente quando poi scatta la violenza poi bisogna vedere com'è che lo Stato poi reagisce e come la gestisce. Per ora mi sembra che grandi idee non ne abbia, mi sembra che qui si navighi veramente a vista. Sì, è stata emblematica, penso, la dichiarazione del ministro della Giustizia criminalizzando e basta le rivolte senza minimamente problematizzare la situazione. Un'altra cosa che, diciamo, è venuta a galla è il fatto che, ci siano state le direttive ministeriali rispetto alle condizioni, insomma, che andavano mantenute nelle carceri, ma di fatto vengono applicate, cioè queste stende di triage sono state effettivamente approntate nelle carceri, la mucchina c'è? Allora, io non lo so bene qual è la situazione all'interno degli istituti. Io so, per esempio, ti posso parlare degli istituti, in buona parte degli istituti della Toscana queste sono state installate, diciamo, le tende con cui si dovrebbe fare il triage, però io non sono sicuro che in tutti gli istituti ci sia personale addetto, che la macchina sia effettivamente operativa e funzionante. Io credo che fino a questo momento qui si sia sottovalutato, si stia sottovalutando quello che sta succedendo all'interno degli istituti. Qui non mi riferisco all'amministrazione penitenziaria, ma mi riferisco alle ASL. Io credo che se ne stiano un po' fregando, perché senza rendersi conto che il coronavirus in una struttura come il carcere, dove ci sono principalmente individui malati, ma molto più malati che in libertà, cioè la condizione di salute media dei detenuti è drammatica, cioè noi ci dobbiamo rendere conto, circa il 10% dei detenuti reclusi nelle carceri italiane è affetto da una malattia infettiva tipo epatite, HIV, ci sono malattie basta andarsi a leggere l'ultimo studio fatto dal Ministero della Salute sulla condizione dei detenuti in carcere e ci si rende conto che partiamo da una situazione drammatica. Ma vi rendete conto quello che può succedere se scoppia una pandemia all'interno della popolazione detenuta? Che rischio c'è? Io ci credo che i detenuti sono spaventati, perché sono già di base in una condizione di salute drammatica. E quindi il carcere dovrebbe essere probabilmente uno dei primi luoghi in cui intervenire. Il carcere oggi andrebbe gestito come un ospedale. Io ho l'impressione che questo non sia fatto, si lascia tutto, si scarica la responsabilità sull'amministrazione penitenziaria, perché anche nel decreto si è scritto che la gestisce l'amministrazione penitenziaria con il supporto della ASL, scelta assurda, perché il carcere doveva essere trasformato in un ospedale, gestito come un ospedale, perché se la situazione di salute di base dei detenuti è questa, allora va trattato come un ospedale, tutte le cautele che si usano negli ospedali andavano utilizzate all'interno degli istituti penitenziari, e invece no. Si limita a dire, non possiamo entrare i volontari, chiudiamo i colloqui con i familiari, eccetera, eccetera, però poi di fatto dopo 10 giorni arrivano 100.000 mascherine destinate al personale. Queste sono le misure che sono state adottate. Nulla, nulla rispetto a quello che servirebbe. E ci sono stati casi a livello mondiale, tipo abbiamo visto l'Iran, che insomma, diciamo, non si possa proprio definire fra gli stati più democratici del nostro pianeta, eppure una misura carceraria, insomma, una misura rispetto all'emergenza carceraria molto diversa, lasciando in cautelari una 70.000, si diceva, detenuti. Ma in Italia è una cosa che si può fare? In Italia, come dire, con la legislazione attuale, intanto avremo la possibilità di mandare a casa, non ti saprei quantificare, dare un numero esatto, però sicuramente diverse migliaia di persone. Basterebbe intensificare il ricorso, diciamo, già nella fase cautelare, quindi parliamo di persone che sono in carcere perché imputate di reato, non condannate. In numerosissimi casi si potrebbero dare gli arresti domiciliari, si potrebbe evitare l'ingresso in carcere, perché sapete che vuol dire oggi? Se si dovesse gestire seriamente l'emergenza coronavirus oggi in carcere, una persona che entra in carcere dovrebbe essere tenuta in isolamento per 14 giorni, perché io non lo so se questo qui è un portatore di virus, se non lo posso mettere a contatto con gli altri detenuti. Oggi, per esempio, nell'istituto di Firenze e Sollicciano questa cosa qui non è possibile, perché non ho possibilità di isolare le persone che entrano in carcere. Come faccio? Voi considerate che noi su una popolazione di poco meno di 60.000 detenuti all'anno entrano ogni anno in carcere circa 75.000-80.000 persone, cioè nuovi ingressi. Quindi io questo non lo posso fare. Quindi naturalmente dovrei contenere questo numero qui e ricorrere a misure come la detenzione domiciliare per i condannati, però come dire, da questo punto di vista anche le indicazioni sono contraddittorie, perché da una parte si dice ai magistrati dovete ricorrere a misure alternative eccetera eccetera, dall'altra parte gli si dice anche attenzione a far uscire quelli che poi però potrebbero uscendo poi andare in zone contaminate eccetera eccetera, quindi attenzione a non concedere troppi permessi premio sia in libertà eccetera eccetera, quindi insomma mi sembra che non è che abbiano le idee tanto, tanto chiare anche sulle misure che sono state adottate, ecco. Certo, ma e fra le 70.000-80.000 che entrano, quante vengono scarcerate l'anno più o meno? Cioè il rapporto allora, qual è? Il numero attualmente è abbastanza pari, cioè nel senso quelli scarcerati sono leggermente di meno, infatti la popolazione detenuta cresce anche per questo, perché comunque le persone scarcerate sono un po' meno di quelle che escono, ma un po' meno, non c'è una grandissima differenza, perché poi come dire, l'aumento dei detenuti è dovuto all'aumento della severità, cioè al fatto che le condanne che vengono inflitte sono più severe, quindi noi più o meno sì abbiamo tra ingressi e uscite potremmo dire che 150.000 persone entrano ed escono dal carcere in un anno, senza considerare che in carcere ci lavorano 40.000-45.000 poliziotti penitenziari che mica dormono in carcere, escono, fanno una vita sociale, quindi naturalmente anche loro, come dire, sono potenzialmente fonte di trasmissione del virus, tutti i civili che lavorano in carcere, il personale sanitario, che ci lavorano tantissimi in Italia. Insomma, intorno al mondo del carcere c'è una movimentazione enorme. Uno pensa il carcere sia un posto piccolo, isolato, facilmente isolabile. No, assolutamente. Il carcere è pienamente immerso, diciamo, nel contesto sociale. Certo. E ti farei un'ultima domanda. Parlando, quando si parla di possibilità di dare, diciamo, detenzioni domiciliari, si apre un altro problema, ovvero quello proprio di avercelo un domicilio, di avercela una residenza. E questo, diciamo, non solo per la situazione carceraria, c'è tutta una campagna che parla di io sto a casa, ma non tutti hanno una casa. Ti fa dirci due parole su questo? Naturalmente la maggior parte delle persone che sono in carcere, una larghissima parte, sono poveri, e quindi individui che una casa non ce l'hanno. Se ce l'avevano prima di entrare in carcere, poi la perdi, perché naturalmente se sei in carcere com'è che ti paghi un affitto? Quindi di fatto la detenzione domiciliare è uno strumento riservato a persone che stanno un pochino meglio dal punto di vista economico. È uno strumento classista, diciamo, consentimi il termine, tanto è vero che io personalmente non sono un supporter delle misure alternative, perché le misure alternative naturalmente sono destinate principalmente a persone che sono o benestanti o comunque hanno qualche possibilità economica, quindi naturalmente la soluzione non è questa, la soluzione principe resta sempre quella della decriminalizzazione, ma parlare di decriminalizzazione in Italia poi in questo contesto qui, diciamo, non dice, è un'utopia, troppo lontano. No, è un'utopia. L'altra alternativa potrebbe essere uno strumento come l'indulto, come l'amnistia, però non mi pare che ci siano le condizioni, e comunque anche quello è uno strumento contemporaneo, perché quando si fa un indulto, abbiamo visto nel 2006, per un po' la popolazione detenuta diminuisce, però se io continuo a mantenere le stesse leggi che criminalizzano le condizioni di povertà, perché di questo si tratta, le persone continueranno sempre a entrare, per cui io il problema non lo risolvo. Ti parlo della detenzione domiciliare, ora nella situazione contingente io qui devo far uscire, dovrei far uscire almeno 10.000 persone per rendere la situazione un po' più gestibile in carcere, e quindi con la legislazione che c'è io ti dico detenzione domiciliare, però sì, hai ragione tu, escono quei pochi che la casa ce l'hanno, che una situazione stabile ce l'hanno. Certo. I poveri, quelli disgraziati veri, restano dentro perché non hanno un posto dove andare. Ultimissimo, ma la differenza fra indulto ed amnistia ce la puoi spiegare? Allora, noi nel 2006 abbiamo fatto appunto un provvedimento di indulto che riguarda, come dire, abbiamo selezionato un certo numero di cellule, abbiamo detto sostanzialmente escono tutte le persone che hanno un residuo pena, una pena che gli resta da scontare di 3 anni. E quindi appunto abbiamo fatto questo tipo di scelta. Con l'amnistia invece si va a scegliere un determinato tipo di reato, cioè si fa l'amnistia e si scelgono i reati per cui appunto si vogliono liberare le persone, e quindi sono due strumenti diversi che ovviamente a secondo di quanti numeri di anni decido di indultare oppure a seconda di quali tipi di reati io decido di fare l'amnistia, possono intercettare un numero più o meno grande di persone. Noi, sono strumenti, l'amnistia che utilizziamo dall'Ottocento, dal Regno d'Italia, perché noi periodicamente continuiamo a criminalizzare, poi intanto si fa l'indulto, l'amnistia, si fanno uscire un po' di persone, però poi appunto si ricomincia. Però no, ora è dal 2006 che non lo facciamo, però uno strumento ne abbiamo usato nella storia d'Italia una marea di volte. Negli anni 60, negli anni 70, cioè continuamente. Quindi più o meno, non so se sono stato chiaro, insomma, sulla differenza tra i due. Sì, io pensavo ci fosse una differenza legata anche a, diciamo, la cancellazione totale del reato. No, ma forse sbaglio io, cioè pensavo ci fosse proprio anche di ciò che ti lascia l'uno e l'altro fossero differenti. Rispetto alla fedina, ma forse non c'entra nulla, invece ha solo a che fare con la detenzione. No, io credo che ora me la dovrei riguardare per bene questa cosa qui, ma io credo che in entrambi i casi non ci sia un discorso legato alla cancellazione del reato dalla fedina penale, cioè nel senso credo certo. Che comunque quello resti comunque. Buono, io non so se ci puoi lasciare con qualche prospettiva, se c'è a livello nazionale qualche unità sulle richieste che si stanno portando avanti per i diritti dei detenuti, se quali possono essere le rivendicazioni che ha più senso urlare a gran voce in questo momento, siccome si parla appunto si rivendica dall'amnistia alle telefonate extra, quale può essere la linea in questo momento da tenere? Temo purtroppo che ci sia una macchina in corsa, che ora sia un po' complicato da tornare indietro a gestire, ma l'idea per esempio di chiudere completamente il carcere rispetto all'esterno è una cavolata, perché comunque l'abbiamo visto, è stato trovato positivo un allievo di polizia penitenziaria qui in carcere, quindi è normale. Per cui secondo me queste misure draconiane che sono state prese di chiudere il carcere ai familiari eccetera eccetera sarebbero da rivedere, e laddove appunto ci possono essere le condizioni, perché per esempio non in tutti gli istituti ora dicono di portare Skype per fare i colloqui, ma questo in molti istituti non è possibile perché non hanno le linee, non c'è la possibilità di fare navigazione su internet veloce, per cui insomma secondo me bisognerebbe un po' ritornare indietro su queste misure eccessive che sono state fatte, e poi bisognerebbe davvero che le ASL si prendano le responsabilità, ma in maniera seria, degli istituti penitenziari, perché non si può lasciare questa cosa qui all'amministrazione penitenziaria, perché l'amministrazione penitenziaria non ha le conoscenze, non ha gli strumenti, è assurdo farla gestire. Allora, il carcere va gestito ora come se fosse un ospedale. Quindi il problema è che non è popolare questo, perché ti immagini se dici fuori all'esterno mandate più personale, più infermieri, perché io so che sono stati per esempio agli ingressi di istituti state fatte, messe le tende per il triage, ma manca il personale. Allora che fai? Togli il personale dagli ospedali per mandarlo a assistere ai detenuti che sono brutti e cattivi? Quindi non è molto popolare, però allo stesso tempo c'è un problema di garanzia dei diritti, ma c'è anche un problema che poi è una bomba di possibile il carcere, per cui bisogna per due motivi intervenire sul carcere, per garantire i diritti ma soprattutto per evitare poi che ci scoppino casini, non mi riferisco a casini nel senso di rivolte, ma proprio a proliferare appunto del virus con possibilità altissima poi di morti e di gravi patologie, di cui poi potrebbero soffrire i detenuti che sono appunto, come dicevo prima, più malati dei cittadini liberi. Giuseppe, ti ringrazio moltissimo e a presto, a risentirci.